Il problema è che è in corso la revisione del codice di condotta dell'Unione Europea sui trasferimenti di armi. Nel 1998, dopo una grande pressione esercitata da tante organizzazioni non governative, tra cui Amnesty e tante altre organizzazioni europee, l'Unione Europea si è dotata di un codice di condotta sui trasferimenti di armi, che tuttavia, pur essendo un importante passo avanti, secondo le organizzazioni che a gran voce ne hanno chiesta l'adozione durante gli anni 90, non è uno strumento sufficiente. Perché? Innanzitutto perché la sua applicazione non è obbligatoria, è un codice volontario. E poi perché i divieti e i vincoli alle autorizzazioni ai trasferimenti di armi che prevede il codice di condotta, secondo noi, non sono abbastanza rigidi e vincolanti per gli Stati. Per cui oggi, nel 2004, sei anni dopo, chiediamo che nel corso di questa riunione dei ministeri degli esteri dell'Unione Europea, che oggi fra l'altro stanno incontrando proprio le organizzazioni non governative, quindi la società civile, si tenga conto di quelle che sono le informazioni importanti che possiamo dare noi, in particolare sulla revisione di questo codice di condotta. Secondo noi è un'opportunità cruciale, soprattutto dopo che dal 2001 in avanti il tema della sicurezza è in cima alle agende politiche dei governi di tutto il mondo. Tuttavia, nei fatti non è stato fatto molto. In particolare noi pensiamo che il controllo sui trasferimenti di armi sia il primo passo da compiere per garantire la sicurezza che è stata chiesta in tante occasioni, soprattutto negli ultimi 3 anni. Una sicurezza che i cittadini pretendono e che i governi devono assicurare. Questa, secondo noi, passa indiscutibilmente attraverso rigidi controlli ai trasferimenti di armi. Non dimentichiamo che le armi che erano in possesso tanto dei talibani in Afghanistan quanto del regime iracheno erano in tanta parte esportati proprio da stati europei.